Ciao, io sono Dennis Battisti, sono di Besenello e ho 21 anni e ho studiato presso l'Istituto Agrario di San Michele. Lavoro per un terzista e faccio il contadino. Mi è sempre piaciuto il mondo dell'agricoltura, per lo più mi piacevano di più gli animali, e più per mia nonna perché aveva le galline, il sabato mi chiedeva di andarle a dare una mano. E dopo mi è sempre piaciuto stare all'aria aperta, lavorare in campagna. Cosa significa per te coltivare la terra? Essere libero, come? Sono sempre all'aria aperta, è difficile perché l'estate è caldo, l'inverno è freddo, è comunque faticoso, però sei sempre libero, diciamo. Non sei rinchiuso tra quattro mura. Ti capita mai di mettere le mani nella terra per il tuo lavoro? Sì. Potresti descrivere i tuoi sentimenti, non so, la mattina quando ti svegli molto presto? Mi sveglio alle 6, porto il cane e dopo vado al lavoro. Per le 7 mi trovo in magazzino, adesso che comincia ancora un po' tardi. Adesso, a me mi piace adesso quando cominci a vedere le vigne che cominciano a piangere, cominci a capire che la stagione sta iniziando e è sempre una bella emozione comunque. Si spera che vada tutto bene, che non ci siano gelate, che la stagione vada bene. Il rapporto con persone che hanno esperienza è fondamentale per questo Sì, lavoro. beh, se non ti insegnano il lavoro che c'è da fare, cioè, nessuno è nato, diciamo, imparato e le più tante cose le ho imparate tante a scuola, ma ne ho imparate di più da gente che lo faceva proprio di professione, che sa insegnarti qualche trucco, che sa insegnarti perché ci ha lavorato molto e ormai è esperta, sa cosa che bisogna fare. Una volta dicevano l'80% era rosso e il 20% era bianco, adesso si è girato, è più l'80% bianco e poco rosso. Questo perché? Penso per il mercato richiede più, adesso va tanto proprio spumante, vino spumante. Allora è fatto col bianco, diciamo, è fatto con Chardonnay, Pinot Nero, quelle varietà lì. Sono cambiati i rapporti rispetto a quando eravate piccolini e magari In che vivevate, senso il no? rapporto? E quello che diceva Romeo, è che appunto bisogna organizzarsi molto, bisogna rispettare delle date, il conferimento anticipato. Rispetto alla vostra esperienza nel passato, come funzionava? C'erano dei tempi più tranquilli? Dopo quello che penso anche è cambiato tanto negli ultimi anni è proprio il clima. Adesso, come ha detto lui, si è arrivato a vendemmiare a Ferragosto. Io mi ricordo quando ero piccolino che vendemmiava mio zio Pino Grigio, comunque una varietà che si vendemmia presto, e alle 10 ci siamo fermati a far merenda e abbiamo acceso il fuoco perché era veramente freddo. E adesso sei in maniche corte perché è Ferragosto. Quindi anche quello è cambiato tanto, è tutto molto più compatto, diciamo, non arrivi neanche a finire di andargli dietro alla campagna che devi subito vendemmiare. Invece prima era non più lento, però avevi più, sì, quasi più lento, avevi quasi Respiro. più tempo. Non arrivi neanche a finire magari le. Sei tutto di corsa, devi arrivare a tagliare l'erba per prepararla per le vendemmie, andare a cimare, non arrivi quasi neanche più a sfogliare perché sei subito da correre. Quando cominci la vendemmia basta, magari dopo i rossi magari partono anche un po' dopo, ma perché adesso anche con tutte queste basi spumanti gli serve acidità, quindi l'uva non è che deve essere super matura e allora anche per quello si comincia veramente presto. Secondo me c'era più tempo una volta forse di riuscire a gestire la campagna, adesso è molto più tutto una corsa. Io, se dovessi scegliere come lavorare, sì, come diceva lui, forse più come una volta, lavorare più per il tuo autoconsumo, sarebbe bello arrivare ad avere proprio il tuo orto, i tuoi animali come una volta, è anche più sano sicuramente di tutto quello che adesso vai a comprare nei supermercati, perché vai nell'orto, lo raccogli e lo prepari. È proprio no, chilometro zero, è magari 20 metri da casa tua, sotto casa tua o nello stesso comune, insomma. Adesso si cerca di lavorare tanta campagna perché magari ci sono più spese, non hai più magari il tempo di dire di riuscire anche ad andarli dietro a quelle cose lì come una volta. Producevi per Per autoconsumo. te, producevi per te. Ma adesso sarebbe percorribile una scelta del genere? Convergere verso un altro ritmo del rapporto con la terra. Tu vivi con quello che produci te. Sì, cioè, è possibile che adesso, non lo so, forse anche vedi un pezzo di terra e ti è la spinta di mettere giù vigne. Come siamo andati a fare un impianto io con il mio capo, per un altro contadino, e aveva un pezzo di terreno che era, mettevano giù asparagi, era l'orto di suo papà, ma un cantone proprio, e ha messo giù vigne, siamo andati a mettergli giù i pali. È più forse la spizza di mettere giù vigne. Dopo è bello anche lavorarle, mi piace tanto lavorarle. È bello anche andare dietro e fargli i fiori proprio, magari come una volta, invece che tirar di lungo perché sennò non arrivi. Sarebbe bello riuscire ad andarli più dietro, ma certe volte non arrivi, devi magari tirare più di lungo. Mi piace tanto magari nella fase vegetativa andare a togliere le foglie, a mollare giù le picche, ai grappoli, a scacchiare. Ti vuoi bene, insomma. Sì.